Fu quando aveva 14 anni che fu presa la decisione dalla famiglia all'unanimità in base alla sua individualità. Aveva un carattere sottomesso verso tutti i suoi superiori, aveva i tratti del formalista e si dimostrava un conformista. Facciamogli fare il colonnello, mettiamogli in testa un bel cappello, marce parate, saluti e cannoni, colpi di tacchi e decorazioni. Facciamogli fare il generale, sguardo severo, aspetto marziale, stivale lucido e lungo pastrano, sciabola al fianco, pistola alla mano. Con gli inferiori autoritario, ostile verso i compagni più miti, superstizioso, stereotipato, rigido, forte, disciplinato, pronto a vedere con circospezione tutti coloro che aveva al suo fianco, considerandoli pericolosi, biechi, malevoli e facinorosi. Facciamogli fare il colonnello, mettiamogli in testa un bel cappello, marce parate, saluti e cannoni, colpi di tacchi e decorazioni. Facciamogli fare il generale, sguardo severo, aspetto marziale, stivale lucido e lungo pastrano, sciabola al fianco, pistola alla mano. Si identificava coi superiori, dava importanza al problema del sesso, voleva mostrare la virilità perché sospettava la sterilità. Sapeva confondere lealtà e dovere, logica e senso della ragione. Voleva essere manipolato dai lavacervelli condizionato. E facciamogli fare il colonnello, mettiamogli in testa un bel cappello, marce parate, saluti e cannoni, colpi di tacchi e decorazioni. Facciamogli fare il generale, sguardo severo, aspetto marziale, stivale lucido e lungo pastrano, sciabola al fianco, pistola alla mano. E fu così che indossò la divisa, gradi, alamari, pennacchi e mostrine. E fu così che divenne un leone, privo soltanto di immaginazione, senza distinguere tra cause giuste, cause opinabili e cause sbagliate. Pistola alla mano, sciabola al fianco, gridò "Ai mamma!" e morì sul campo.